Diana e Anna andarono in calessino fino alla casa dell'Eco dopo il tè, portando con sé il frutto di parecchie spedizioni predatorie nel loro giardino e in quelli dei vicini. Trovarono la casa di pietra in subbuglio per l'eccitazione. Carlotta IV volteggiava con tale energia e vivacità che i suoi nastri azzurri parevano avere il dono dell'ubiquità. Come l'elmetto di Navarra, i nastri azzurri di Carlotta sventolavano anche nel fitto della battaglia. Sia reso grazie a Dio che siete venute, disse devotamente, perché ci sono mucchi di cose da fare e la glassatura di quella torta non vuole proprio solidificarsi. E poi c'è ancora l'argento tutto da lustrare e il baule ancora da riempire e i galli che servono per l'insalata di pollo sono là fuori, che corrono ancora e cantano, signorina Shirley. Alla signorina Lavendar non si può chiedere nulla. Ho ringraziato la provvidenza quando pochi minuti fa è venuto il signor Irving e l'ha condotta a fare una passeggiata nei boschi. Va bene far la corte, signorina Shirley, sa, ma quando si mescola alla cucina e alle pulizie è un vero disastro. Questa, sa, è la mia opinione, signorina Shirley. Anna e Diana si misero al lavoro con tale impegno che alle 10 perfino Carlotta IV si dichiarò soddisfatta. Si intrecciò i capelli in una quantità innumerevole di treccine e si involò portando a letto le sue stanche ossa. Eppure sono sicura di non riuscire a chiudere occhio, signorina Shirley, sa, per paura che qualcosa vada storto all'ultimo momento. Vedrà, la panna non monterà. O il signor Irving avrà un colpo e non potrà venire. Non credo che abbia l'abitudine ai colpi apoplettici, no? Chiese Diana, mentre gli angolini della bocca paffuta le tremavano. Per Diana, Carlotta IV, se non proprio una bellezza, era certo una gioia sempiterna. I colpi sono cose che si hanno per abitudine, ribatté Carlotta IV con dignità. Succedono così ed è fatta. Un colpo può venire a chiunque. Inutile che le spieghi io come. Il signor Irving assomiglia molto a un mio zio che ne ebbe uno una volta, proprio mentre stava seduto a tavola a colazione. Ma forse tutto andrà bene. In questo mondo bisogna sempre sperare per il meglio, prepararsi al peggio e prendere quello che Dio manda. L'unica cosa che mi preoccupa è che domani non ci sarà bel tempo, disse Diana. Zio Abe ha previsto pioggia per metà settimana e da quella volta del temporale non posso fare a meno di credere che c'è del vero in quello che dice zio Abe. Anna, che sapeva più di Diana quanto poco zio Abe avesse a che vedere con il temporale, non era molto turbata da questo fatto. Dormì del sonno del giusto e dello stanco e fu svegliata un'ora antelucana da Carlotta IV. Signorina Shirley! Oh, è terribile svegliarla così presto! Bisbigliò una voce lamentosa attraverso il buco della chiave. Ma ci sono ancora tante cose da fare e signorina Shirley sa, ho proprio paura che venga a piovere! Così vorrei che si alzasse e mi dicesse che pensa di no. Anna volò alla finestra, sperando, a dispetto di ogni apparenza, che Carlotta IV dicesse questo solo per strapparla più efficacemente al sonno, ma ahimè, la mattinata non si annunciava propizia. Sotto la finestra il giardino della signora Lavendar, che avrebbe dovuto essere una gloria al pallido sole dell'alba, era buio e senza vento. Il cielo sugli abeti era scuro di nuvole cupe. Oh, che rabbia! Esclamò Diana. Dobbiamo sperare per il meglio, aggiunse Anna decisa. Ma se non piove, una giornata fresca di un pallido grigio perlaceo come questa sarà molto più carina che se splendesse il sole. E invece pioverà! Borbottò cupa Carlotta, insinuandosi nella stanza con tutte quelle treccioline in testa e quei capi legati con filo bianco sporgevano in tutte le direzioni. Starà su fino all'ultimo momento e poi pioverà a catinelle. E tutta la gente si inzupperà di pioggia e mi lascerà tracce di fango per tutta la casa, così non riusciranno a sposarsi sotto il coprifoglio. E dica quel che vuole, porta molto male se il sole non splende su una sposa. Signorina Shirley, lo sapevo io che le cose andavano troppo bene per durare. Si sarebbe detto che Carlotta IV avesse strappato una pagina del libro della signorina Eliza Andrew. E invece non piove. Anche se minacciò continuamente di piovere. A mezzogiorno le stanze erano tutte decorate e la tavola meravigliosamente apparecchiata. Al piano di sopra aspettava la sposa adorna per suo marito. È proprio un amore, disse Anna con voce rapita. Adorabile, le fece eco Diana. Tutto è pronto, signorina Shirley. Sa, ancora non è accaduto nulla di sconvolgente. Fu l'allegra constatazione di Carlotta mentre si ritirava per vestirsi nella sua piccola stanza sul retro. Scomparvero le treccine, l'esuberante crespa capigliatura che ne risultò venne compressa in due trecce e legata, non con due soli nastri, ma con quattro nastri nuovi di zecca, di un azzurro vivido. I due nastri superiori davano piuttosto l'impressione di due ali cresciute in fretta che spuntavano dal collo di Carlotta, in certo qual modo alla maniera dei cherubini di Raffaello. Ma Carlotta Quarta li considerava bellissimi e dopo che si fu infilata frusciando un vestito bianco, così inamidato che stava ritto da solo, si esaminò nello specchio con la più viva soddisfazione. Una soddisfazione che durò finché uscì nell'atrio e dalla porta della stanza degli ospiti colse in un'occhiata rapida una ragazza abbigliata con un abito lungo che aderiva mollemente al corpo nell'atto di appuntarsi dei fiori bianchi simili a stelle sulle morbide onde dei capelli ramati. Oh, non riuscirò mai ad assomigliare alla signorina Shirley, pensò la povera Carlotta disperata. Bisogna esserci nati, credo. Mi sa che per quanto uno si eserciti un'aria simile non riuscirò mai ad averla. All'una gli ospiti erano arrivati, compresi il signore e la signora Allan. Infatti, in assenza del pastore di Grafton, che era in vacanza, le nozze sarebbero state celebrate dal signor Allan. La cerimonia fu assai poco formale. La signorina Lavendar scese le scale e ai piedi di esse incontrò lo sposo. Mentre lui le prendeva la mano, lei sollevò i suoi grandi occhi nocciola e lo guardò con uno sguardo che, intercettato da Carlotta Quarta, la impressionò vivamente. Quindi uscirono e si avviarono alla pergola del Caprifoglio, dove il signor Allan li aspettava. Gli ospiti si raggrupparono a loro piacimento, Anne e Diana rimasero accanto alla vecchia porta di pietra, con Carlotta Quarta in mezzo a loro che stringeva disperatamente le loro mani con le sue manine tremanti. Il signor Allan aprì il breviario e la cerimonia incominciò. Proprio nel momento in cui la signorina Lavendar e Stephen Irving venivano dichiarati marito e moglie, accadde qualcosa di molto bello e simbolico. Il sole comparve di colpo in quel mare di grigio e riversò i suoi raggi sulla sposa felice. Immediatamente tutto il giardino si animò di ombre danzanti e di tremule luci. Che bell'augurio! Pensò Anna mentre correva a baciare la sposa. Poi le tre ragazze lasciarono gli ospiti a festeggiare la coppia mentre volavano in casa per vedere che tutto fosse pronto. Siano rese grazie, è finita, signorina Shirley, sospirò Carlotta Quarta. Ormai sono sposati, qualunque cosa succeda. I sacchetti di riso sono nel tinello, signorina, e le scarpe vecchie dietro la porta, e la panna da montare è sui gradini della cantina. Alle 2:30 il signore e la signora Irving partirono. E tutti andarono a Bright River ad accompagnarli al treno del pomeriggio. In quanto alla signorina Lavendar, chiedo scusa, alla signora Irving, quando uscì dalla porta della sua vecchia casa, Gilbert e le ragazze lanciarono il riso e Carlotta Quarta tirò una scarpa vecchia con una mira così precisa che colpì direttamente sulla testa il signor Allan. Ma il risultato più carino fu riservato a Paul. Sbucò fuori dal portico, suonando a tutto spiano un vecchio enorme campanello d'ottone che di solito adornava il caminetto. Paul si era ripromesso soltanto di fare un po' di chiasso, ma quando il fragore svanì, dall'altra parte della collina, oltre il fiume, giunse lo scampanio delle campane nuziali che suonavano cristalline, dolci, sempre più dolci e deboli, come se gli amati echi della signorina Lavendar la salutassero e le dicessero addio. E così, tra la benedizione di quei suoni amabili, la signorina Lavendar uscì dalla sua antica vita di sogni e di fantasie per affrontare la vita della realtà e il mondo tutto in faccende, oltre la collina. 2 ore dopo, Anna e Carlotta ridiscendevano per il viottolo. Gilbert era andato a West Grafton per una commissione e Diana aveva un impegno a casa. Anna e Carlotta erano tornate a mettere tutto in ordine e a chiudere a chiave la piccola casa di pietra. Il giardino era inondato dal caldo sole dorato. Le farfalle volteggiavano e le api ronzavano, ma la casetta aveva già quell'indefinibile aria di desolazione che segue sempre a una festa. Oh, povera me, guardi che malinconia! Tirò su con il naso Carlotta Quarta che aveva pianto per tutto il tragitto da casa alla stazione. Un matrimonio non è poi tanto più allegro di un funerale, signorina Shirley, quando la cerimonia è finita. Seguì una sera di intenso lavoro. Si dovettero togliere gli addobbi, poi vennero lavati i piatti e tutte le ghiottonerie che nessuno aveva mangiato vennero riposte in un cestino per la gioia del fratellino di Carlotta IV. Anna non si riposò finché tutto non fu in perfetto ordine. Dopo che Carlotta se ne fu andata a casa con il bottino, Anna riattraversò le stanze silenziose, sentendosi come una che cammini da sola in una sala per banchetti abbandonata. Poi chiuse la porta a chiave e si sedette sotto il pioppo argenteo ad aspettare Gilbert. Si sentiva molto stanca, ma continuava inesauribilmente a pensare lunghi e lunghi pensieri. «A che pensi, Anna?» chiese Gilbert scendendo giù per il viale. Aveva lasciato cavallo e calesse fuori, sulla strada. «Alla signorina Lavendar e al signor Irving», rispose Anna in tono svagato. «Non è forse bello pensare a come sono andate le cose? A come finalmente sono tornati insieme dopo tanti anni di separazioni e malintesi?» «Sì, è bello», disse Gilbert guardando fisso il volto di Anna. «Ma non sarebbe stato ancora più bello se non ci fosse stata nessuna separazione, nessun malinteso, se avessero percorso insieme tutta la strada della vita, senza altri ricordi se non quelli che appartenevano a entrambi». Per un momento il cuore di Anna ebbe uno strano palpito e per la prima volta abbassò gli occhi sotto lo sguardo di Gilbert, mentre un rossore appena accennato le coprì il pallore del viso. Fu come se un velo disteso davanti alla sua coscienza e alla sua intimità fosse stato sollevato, rivelandole sentimenti e realtà insospettate. Forse, alla fin fine, l'amore romantico non entrava nella vita delle persone strombettando, chiassoso, come un gaio cavaliere in groppa al suo cavallo. Forse scivolava al fianco tranquillo come un vecchio amico, in maniera discreta. Forse si rivelava prosaico all'apparenza finché un lampo subitaneo di luce illuminava le sue pagine, tradendone il ritmo e la musica. Forse l'amore nasceva naturalmente da una bella amicizia come una rosa, dal cuore dorato, sboccia sullo stelo verde. Poi il velo ricadde, ma l'Anna che ripercorse il sentiero buio non era più la stessa Anna che aveva percorso allegra quello stesso sentiero la sera prima. La pagina della giovinezza era stata girata da un dito invisibile e la pagina della sua vita di donna, con tutto il suo fascino e il suo mistero, il suo dolore e la sua gioia, si apriva dinanzi a lei. Gilbert saggiamente non disse altro, ma pur silenzioso lesse, nel lampo di rossore che aveva illuminato il volto di Anna, la storia dei prossimi 4 anni. 4 anni di lavoro felice e appassionato e poi il premio, il sapere conquistato l'amore della sua ragazza. Dietro di loro, nel giardino, la piccola casa di pietra sembrava triste nell'ombra. Abbandonata ma non dimenticata. Non era ancora finito il tempo dei sogni e delle risa e della gioia della vita. Vi sarebbero state altre estati per la piccola casa di pietra. Intanto poteva aspettare. E al di là del fiume, nella loro purpurea prigionia, gli echi, anch'essi, aspettavano la loro ora. Fine.